Giampaolo, la madre, la sorella, insomma li ho conosciuti tutti quando erano più giovani. Io vivevo a casa di Giampaolo, io non facevo il tempo fino ai mangiare, io a casa di Giampaolo, fatelo conto. Ero sempre lì, conosciuto la madre, il padre, il ragazzino io. La madre, il padre, il fratello, la sorella. Vicini a me. Guarda, ci mancherà un poco, non c'è un po', sarebbe stato già cognato. Ma vero? Ci piacevamo. Kappa. Vabbè, poi quando andate ad andare così, non va così, cosa devi fare? Comunque, io me lo ricordo bene il padre, come se fosse oggi. Aveva dei tatuaggi, la madre era robusta, ma lo ricordo tutto come se fosse qua presente. Ma tu lo sai come si chiamava? Il padre? Il soprannome. Lambo. Mambo? No. ma era un po' muscoloso, doveva avere molta forza. Grazie. carabinieri. Guardelli, Guardelli si chiama, Ruderesco. Ma un carabinieri? Sì. E se lavora la fiamma sciarpa? La fiamma sciarpa lavora. Allora dobbiamo stare in pensione. In pensione, esatto, la fiamma sciarpa gli va un bel lavoro lì, la fiamma 2000. È un responsabile, qualcosa del genere, ha fatto un incarico abbastanza grosso. Prendi Duca, ma di che quello sono soldi rubati? Ma come si fa? Se sei pensionato dal ministero, perché devi andare a continuare a lavorare? Solo perché sei andato in pensione giovane? Ma io ne conosco un altro che da 52 anni in finanza e pensione e sta lavorando in un sindacato, per dire. Ce ne sono tanti che lo fanno, hanno doppio lavoro così. Ecco, gli altri non recuperano preti, non sono tutti ex poliziotti. Perché vanno in pensione presto e non sanno cosa fare, si cercano un altro lavoro e loro lo trovano perché gli danno fiducia e lo trovano subito. Io conoscevo anche il segretario di un onorevole, lo stesso che era un ex carabiniere. Sì, che vergogna, non sapevo da sì. Beh, anche Angelo è in pensione del presidente della Executive. Ciao, Gianpa, ci vediamo dopo. Angelo Grasso è il presidente della Executive, capito? Ma il carabiniere, quello della carabiniere. Dall'arma, ma soltanto dal giro che gli aveva dato l'onorificenza. Io ho capito che anche quello. Vabbè. Purtroppo, grazie. Oh già, io vado a mangiare, dai. Ci sentiamo dopo qua, sì. Sì, io va. Vabbè, tranquillo. Vai, mangia e mi metto il pigiama io intanto. Dopo scendere a buttarci della roba, ma non aggiungare. No, io ce l'ho avuto una mattina, c'ho un paio di cassette, non adesso, ce l'ho avuto una mattina. Tanto l'anno vado io, però con me c'è il cane, con le parte di tutto il giorno. Ma 10 minuti sono qua dopo. Zero, zero, io, okay. cercando. Sì, ma ho detto, cosa sta facendo? 0-0. Ancora è 0-0. Speriamo bene. No, bene. Sì, vabbè, non c'è manca quello che già fa per te. Papà, no, la cosa è diversa che tu per finita. Se lo fanno un gol, infatti. Sì, già, però fanno lo stesso, il gol non c'è problema. Papà. Ma ripeti. Ho letto che dove stai facendo, sempre fuori. È la finale quando tutta la pressatura. Sì, sì, non è così. Ma che bella silenzio, ma non va. Dici che è nella furgonetta. Ma no, tu mi hai detto che nella casa si vuole mettere una... un caffa e... un coso, come si dice? Un'antenna grande nella casa dove vai tu, dai. Via. Non so se metto la cittadella 24, quello che c'è in garage. Tu sei a bomba. Vediamo se ci sentiamo. Io penso proprio di sì, penso. Intanto a fine settimana già mi faccio sentire da lì. Caffa. Penso che perché ci è andata una persona in corsia e io lo sentivo da qua, mi è andato col camion, ma in corsia, per la mia rasinata. E io lo sentivo a fare. Dici poco volte in chiesa. Davanti al produttore c'è qui il suo problema. Ma come si dice a Portogorra? Sì, vabbè, già è lontano, però già. Col mare non c'è problema. Ma che cosa fa? Altrimenti è forse con la vecchia, forse. Vaglia. Ciao Claudio, ciao a tutti, divertiamoci, sono buono. È andato Stefano, il marito di Coso. Arrivava a 9:10 qua Stefano. Sì, ma io metto l'antenna a casa però. Ah, perché va a dormire? Che capita a fine settimana, sì. Non spesso capita, ma spesso. Un cinghiale? Adesso vediamo, dovrebbe arrivare nulla volta il prossimo mese, vediamo che cosa dobbiamo fare, che lavori siamo a fare, se capita se non lavori grossi come l'anno scorso, stiamo lì. Cosa stanno facendo per la Sinara? Qualche posto di accoglimento per i turisti, che cosa stanno facendo? Nulla, per il momento non c'è manco traghetto. Perché non sta andando il traghetto che andava alla Sinara? Non ha detto già un giorno, una comitiva ha organizzato una gita, 30 persone sono andate a prendere il traghetto non parte, non ci sono soldi, non c'è convenzione regionale. Perché una volta ci aveva comprato uno yacht che organizzava cene sopra quello del marito di Antonio, quella che aveva due isole prima con le chiarina, ti ricordi? Siciliano. Ci aveva comprato lo yacht comprato, poi non lo so che fine ha fatto, ma mi avevano anche dato l'orchidea, sono andato a bordo a vederlo. Non so che fine abbia fatto. E vabbè, la cena è barca da produttore che fanno queste cose. No, io non ne ho problemi, non me ne ho fatto nulla, la macchina è già lì. Io entro da Tintino con la motovedetta della capitaneria. Ah, non ce n'è imbarcatore che vi altri imbarcatori che vi portano? No, io no. La macchina dove la lascia? Sì. Una macchina è la Sinara, le macchine di servizio sono tutte la Sinara, la nostra, quella dell'Enel, quella della Telecom, tutti lì sono, quelle che fanno servizio lì sono tutte lì le macchine. Ci hanno permesso per stare lì, quindi io arrivo per la macchina e vado e la giro tutta dove devo andare. L'anno scorso qualche volta sono entrato con Antonio Scano, lo conosci Antonio? Magari se lo vedo di vista sì, ma di nome no. In ogni caso adesso ricordati, portati la canna da pesca che di notte fai la pesca te bene. Sì, sono per pesca io, niente, non ne vedo più quando, non sto facciamo del campo, tanto non scava il vigile. Ah, sì, sì. Il comandante li avvicinava lui. Paga, ma dei baracci? Dei vigili urbani, c'è il comando dei vigili urbani. Davvero? Questo non lo sapevo. Io pensavo che la signora fosse una cosa dimenticata un po' dal mondo, invece vedo che c'è qualcosa ancora. C'è tutto già, c'è il comando dei vigili urbani, il comando dei carabinieri, accademia dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia costiera, della forestale, c'è tutto, e tutti fanno servizio, è tutto attivo, adesso mi da maggio. L'inverno si alternano, Antonio entra due volte alla settimana, controlla tutto, ci sono problemi, tutti i permessi allo scarico della nave, permesso di transito, tutto, ti chiede tutto, mentre i carabinieri girano con la camionetta, lo stesso, tutto, un'isola abbastanza trafficata. Sì, quanti ne ho visto col cappellino giallo, la maglietta gialla, tutti quanti scolaresche, cose, di tutto. Ma lavorava con l'imbarcazione, come erano fermati? Ci prendeva appena di acqua a lui. Già, sempre dei contributi ci parla, non è che quelli lavorano con i biglietti tuoi, no? Qui c'è un servizio pubblico, e ci sono dei contributi regionali. Non arrivano i contributi e ti mettono ancora a terra. Ma te lo paghi il gasolio, il personale ve lo paga dai biglietti. Una volta stavo pescando e si è fermato questo peschiliccio. E come vedo che si questa di 400 euro di gasolio ha messo e gli ho detto a quanto vi basta questo? Un'andata e al ritorno ne avanza appena. Voi spesso ci sono per fare queste cose già, un bel di spese, non si scherzano, quindi se non arrivano i contributi è chiaro che va in fallimento e quindi molte attività di quel genere si sono ritirate. C'era anche il peschereccio tre fratelli, quello di San Nino, che faceva il trasporto alla Sinara, tutto, e non lo guardi lì. Vuol dire che non c'è convenienza, se non lo fanno perché non c'è convenienza. Sì, San Nino i pescatori. Via, sono molto efficienti o sono ritirati. Anche lì c'è una convenzione comunale, capito? C'è una convenzione comunale con dei contributi regionali. Se però non arrivano le cose, che alla fine non ce la fai andare avanti, capito? Aspetta, è arrivata mia figlia un attimino, torno subito un attimino. Guardi se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10. Avanti. Hola. Avanti, chi c'è sul 10? Chi sei? Avanti.